canta, e la gallina canta. Musichiere. Su. Ora si comprende un accidente di succede zero. Non si comprende nuda, né gaffa né che adruda. Peggio che mai. Eia. Giulio. Ehi. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Franco, come stai? Ah, ciao fra, non ti avevo riconosciuto. Io bene, tu? No, pensavo fosse Luca, che tutte le mattine anche lui là con quattro colpi così, e però poi non parla mai. Eh no, quello che ha dato i colpi non ero io, ho sentito la tua voce e ti ho chiamato alla prima, dai. Ok fra, sì, tutte le mattine io accendo, chiamo a Luca, ma Luca ha perso la parola, capito? E dunque non risponde mai, risponde con qualche colpo importante e qualche così, qualche grido che fa. E dove l'ha persa? Zona Monte? No, quella della latte dolce, se l'ha dimenticata a casa, quando esce poi non se la porta dietro, capite? Vabbè, magari sa come c'è, sarà arrugghito. No, non è arrugghito, è permaloso, non è arrugghito, io glielo dico chiaro. Perché cosa? Quando l'abbiamo fatto? No, niente, no, perché lui dice che vuole solo l'ascolto e basta. Perché tanto dice, c'è tanta gente che ascolta, sicché se parlo io le altre ascoltano, allora anch'io mi metto all'ascolto, ed è cosa del QRM, cosa può fare? Allora, tanto, un progetto che c'è, come si dice, in frequenza. Con tutta la gente che c'è, guarda, che si possono contare su una mano, non su due mani, su una mano. Ieri eravamo in 5, mi sembra, 5 o 6, ma eravamo tutti vivi, con l'aggiunta anche di qualcuno a Porto Torres. Quindi è già qualcosa, così? Era già un evento straordinario da ieri, perché di solito non c'è più nessuno. Ma cosa vuoi fare, Dio? Comunque il resto tutto bene? Sì, tutto bene, e tu? Oggi un po' più tardi del solito, dai. Però acceso per scaldare un po' i motori. Beh certo, vabbè, io ti accendo tutti i giorni, mattina e sera, ma comunque a parlare non parlo mai con nessuno, perché tanto non c'è nessuno con che parlo, col muro. Allora, oggi sono stato fortunato, ho acceso e ti ho beccato al volo. Sì, infatti mi ha beccato al volo. Qualche volta magari sento Antonio Bombolo, anche ieri mattina già l'ho sentito, anche ieri sera per la verità. Sto dicendo, ieri era una serata un po' straordinaria, no? Rispetto a tutti gli altri giorni, perché da un bel po' di tempo a questa parte, boh, tutti in silenzio. Ieri c'era Gio Maria su questo canale, c'era Tore, sempre della Teloce, poi chi c'era? C'era Eugenio da Porto Torres, Natalino, poi sono entrato io, Antonello Pomponio, e poi forse qualcun altro mi sfugge. Insomma, era una giornata in particolare ieri. Caspita, sempre su questo canale, vi sentite? Sì. Sì, eravamo su questo canale, sì. Va bene. E Antonio, un po' che non lo sento, Antonio Bombo, come sta? Sta bene, oggi penso che sia al lavoro comunque, perlomeno così ieri ha detto che oggi sarebbe dovuto andare al lavoro, suppongo che sia andato, non lo so. E magari qualche concerto, che lui monta questi impianti, come si chiama, impianti stereo, dai. Sì, lui fa questi lavori così di assemblamento, impianti vocali, eccetera, insomma, una specie di fonico, come si chiama, più o meno così. Un bel lavoro, mi è sempre un po' appassionato amplificatori, queste cose qua, dai, finali, microfoni, mixer. Sì, è uno che lo fa da tanto tempo adesso questo lavoro, lavora per diversi gruppi, anche per l'azienda ha lavorato ultimamente, insomma un po' per tutti, dai, un po' per tutti i gruppi della Sardegna, non sempre solo lui, qualche altra volta c'è anche Calvino, perché anche lui fa quel lavoro, oltre al lavoro suo personale di imprenditore, fa anche quel lavoro lì. La passione è passione, giù. Sì, in effetti la passione è una cosa da coltivare, perché è una cosa che è bella, perché la pratica è bella. Come apparecchio, cosa stai usando oggi? CRT 6009, no, non lo uso altro, io uso solo questo, 2 watt, anche scarso tra l'altro, perché con lo strumento mi dà meno di 2 watt, 1,5 watt. No, va bene, ti ascolto ugualmente. Invece la mia radiazione è sempre uguale, sta trasmettendo bene. Va benissimo, la tua radio è perfetta, non c'è problema. Mi stai facendo 9,10, mi stai facendo anche, tra l'altro, vabbè, capisco come può essere, se no non arriveresti così a comunque segnale. Beh, se scaldo tutto, Fai bene. Fai bene, comunque, 9,10 oscillante. Tieni presente che lo switcher è a barrette, non è di quello analogico. Questo qui è a LED, per cui tieni in considerazione quella. Però tutto sommato devo dire che ho fatto la comparazione con lo switcher e all'ancetta e devo dire che corrispondeva. Sì, ecco, quindi sono più tranquillo, là. Sì, infatti adesso sei 8,5. Che cambia un po' la cordatura, da quando sgancio, scusa, 2 secondi che accordo, non capisco perché cambia leggermente, dai, non molto, appena, così va meglio. Sì, vabbè, siamo intorno agli 8,5, dai, 8,5, va bene, va benissimo, la radio è perfetta, è bellissima. Ma anche agganciato serve la radio, no? No, assolutamente, è sempre uguale, buona, buonissima. L'importante è quello, dai. Sta andando tutto bene allora. L'antenna è sempre lì. Sì, va benissimo, no? Non c'è problema. Alla grande, segnale di difetto e la radio è ultima. Meglio di così. La posizione dell'antenna è sempre al solito posto, così. Purtroppo è sempre lì, dai. E chissà se un giorno vi faccio la sorpresa, te le immagini? Lo so, anch'io ce l'ho sempre nel terrazzo, adesso in una posizione molto bassa, per cui, ma ad ogni modo, ormai ce l'ho già da qualche annetto così, e la tengo sempre, anche perché è portata di mano. Tu pensa che è attaccata alla mansarda della finestra della mansarda, del terrazzo di mansarda. Infatti se mi metto una sedia, allungo il braccio e svito il PL, per farti capire quanto è bassa. La mia è ancora più bassa, però riusciamo a sentirci, nonostante tutto. Adesso vado a prepararmi, mi ha fatto piacere ascoltarti. Voglio rimanere a casa voi? Sì, a casa. Rimaniamo a casa e in famiglia, per cui va bene così. Meglio anche per festeggiare il mio recentissimo compleanno, che era il giorno 29 di aprile, per cui dobbiamo festeggiare quello. Caspita, auguroni allora, dai. Sicuramente un bel traguardo, ma ne avrai altri da raggiungere. Un abbraccio comunque da parte mia. Mi ha fatto piacere comunque ascoltarti. Noi siamo un po' di famiglia, un po' familiari, un po' di amici. Ci riuniamo assieme e ci mangiamo qualcosa. Ancora, buon 1° maggio a te e a tutta la famiglia. Ok? Un abbraccio, Giulio. Ok, fra. Ti cambiato tutto al 100%, Grazie comunque di tutto, molto, molto piacevole sempre ascoltarci, non c'è problema, figurati. Salutoni anche a te in famiglia, dai, buon pranzo quando lo farai. Ci sentiamo, sperando il presto possibile, comunque 82 primavera di ore. Hai capito, mio padre invece ne compie 92, dai, 10 anni più piccolo, quindi sei un giovanotto ancora. Giovanotto, vabbè, 92 anche quello è una bella età, però ancora ce n'è ancora, mia madre si è fermata a 95, figurati. Dai, magari superiamo pure, chi lo sa. Siamo nelle mani di Dio. Dai, ancora buona festività. Ciao ciao. Ok, ciao ciao Fra. Grazie ancora per la chiacchieratina, ciao. Buona giornata a tutti. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Gianni, come va? Bene, bene, sto salendo adesso Fontanero. Sto salendo adesso perché c'è brutto tempo. Volevo andare a farmi un giro, ma ho visto il tempo e ho detto cosa vado a fare. C'è traffico, per cui vedere una brutta giornata. Cioè tu intendi fare magari un'uscita così fuori porta? Tu intendi quello, un brutto per quello, non per la città? Allora, sì, perché devo andare fuori, ma non mi ha entusiasmato tanto il tempo, capito? Lo so, ma io lo sapevo già, perché le previsioni io le seguo tutti i giorni, le seguo, per cui sapevo già che oggi non era una gran bella giornata. Però diciamo che stasera va andando migliorando. Domani ad ogni modo suppongo che ci sia ancora qualche passata di pioggia, non so anche i livelli, comunque ci sarà. E cos'è? Il tempo brutto vi fa uscire in radio, buongiorno. Buongiorno anche a lei. No, noi già ci siamo sempre. Ma cosa, che è più morta che viva questa canaletta che è? E chi è questo signore? Buongiorno, che non l'ho riconosciuto. Forse è una persona che da un bel po' di tempo che manca dalla frequenza. Sì, sicuramente, Giulio, ciao, buongiorno. Sono in Barra Mobile. Barra Mobile, sì, boh. Ma che sei, Tino sì? Caparoge, ciao! Ciao Tino, è tutto bene? Fuori porta te ne stai andando? No, per dire la verità sto facendo manutenzioni, Giulio, e ho acceso la radio a vedere chi c'era e ho trovato voi. Ok, ho capito, sì. Mi ha fatto piacere ascoltarti, Tino. Tutto bene, tranquillo e pacifico qua, tutto funziona alla perfezione. Oggi festeggiamo il 1° maggio, è anche il mio compleanno di 2 giorni fa, per cui va bene così. Auguroni Giulio, auguroni, una stretta di mano e un abbraccio. Va bene, vi lascio al vostro QSO, dai che sto facendo cosa qua in camper, quindi sto maneggiando. E anche devo andare a ritirare tutta la roba perché c'è una stesa e non sa che piove, poi e mi butto. Ok, d'accordo, ti buon lavoro allora, dai, fatti sentire di tanto in tanto almeno se non altro per tenere viva la frequenza, vabbè tu moduli la notte, il tempo a tua disposizione libero è solo quello della notte suppongo, perché durante il giorno lavori chiaramente, è ovvio, e allora però anche in questi giorni mi sa che siete un po' assenti anche lì, No, guarda, io fino a poco fa ero con la radio con Gavino, e che le faccende casalinghe, le faccende giornaliere ci sono, quindi quando ne approfittiamo è perché siamo liberi, non per altro. E adesso, ti ripeto, mi sono seduto un attimino dentro il camper per vedere 2 cose, che sto mettendo il portamoto, quindi volevo vedere se nella telecamera si vedeva bene o meno, capito? Niente di che, quindi ho acceso e ho sentito a voi, ne ho approfittato a salutarvi. Va bene, dai, vi lancio il mic e devo scendere. Ciao, ciao, buon fine 1° maggio. Ciao, ciao Tino, ciao, buona giornata. Ok, ciao Tino, alle prossime, dai, grazie per la chiacchieratina. Il camper io lo conosco molto bene perché ci ho lavorato per tanti anni sui camper, sulle barche, eccetera, eccetera, sulle roulotte. Addirittura ho anche costruito e si è una pianta tutto l'interno, non c'è problema. Avanti Gianni. E poi ci sono quelli che si comprano il furgone e se lo allestiscono loro, dicono che conviene così, più che comprarsi un camper. Ci sono quelli che si fanno il furgone, ce lo allestiscono. C'era uno che veniva a scaricare da noi, d'estate lo usava come camper. Era grande però, era un bel camioncino, dai. E c'aveva tutta la roba piegata, i lati, e caricava la merce e poi d'estate se lo usava per farci le ferie. Aspetta, scusate un attimo prima di scendere perché mi hanno detto che stava andando male questa radio. Un controllo, volate per cortesia. No, sta andando bene. Prova a vedere. No vabbè, è giusto perché dopo le gallerie, anzi prima delle gallerie avevo perso il segnale e non so se mi sentivano a me, dai. Qua sei 9.30 Radio 5 a bomba. la volta scorsa, fa strada per Urbia, dai. Io ho detto che anche da me stai andando alla grande, non c'è problema. Va bene, solo toccherà ricontrollare un po' la massa a questa antenna. D'accordo, vi ringrazio, ciao ciao, buon proseguo. Ciao ragazzo. Non c'è problema, ti, quando vuoi. Comunque, se ti serve un'antenna, sto prendendo una Tube 2001, nuova, mai usata. Ciao, è questa, è questa. Sono belle antenne quelle. Sono come avere la manto qua a casa. Eia, vabbè, là, ciao ciao. Ok, ciao ciao ti. E vabbè, tu non le metti più perché è macchina di radio, Gianni? Sì, sì, io ce l'ho. Ho preso un'altra antenna della Polonia, polacca, che è più corta, più leggera e tutto, e va benissimo. Ok, sì, sì. Beh, certo. Va bene lo stesso. Stavo dicendo, però la quella la 2001, quella lì è la numero uno, suppongo, per la barra mobile, almeno credo che sia quella la migliore in assoluto. C'è la 5000 che è più watt, dai, non è che sia migliore ma tiene più watt, forse come ricezione è qualcosa in più, ma comunque si equivalgono. È molto più grossa, però va bene per il camion. E anche quella, la Turbo 2001, a me mi si è staccata la base magnetica andando al ghero e mi ha fatto danno alla macchina, quindi è per quello che l'ho tolto. Perché a seconda della velocità, giustamente, il vento spinge, il vento della macchina spinge, e la 2001 essendo molto lunga, dunque ha un impatto abbastanza presente come vento, e allora te la butta giù, te la piega, insomma, c'è in qualche maniera ti fa danno, certo. Hai ragione, quando si monta con l'antenna bisogna camminare piano, piano, piano, senza esagerare con la velocità. Invece con questa che adesso posso correre, non si muove di un millimetro, perché malgrado la base magnetica più stretta, però l'antenna è molto più leggera, capito? Lo stilo è molto più leggero, tanto io watt non ne devo attaccare, mi interessa che vada bene l'antenna e basta, watt non ne devo attaccare, quindi per me va benissimo. Certo che sì, tanto cosa ne fai di avere watt in più, no, non serve a niente. Vabbè, tu mi dirai, ma se sono un po' lontano è bello farmi sentire, certo, è bello sì farti sentire, ma bisogna che questo discorso sia reciproco, perché è inutile che ti fai sentire tu, ma che magari non ti sento io, dico io, puoi dire un altro anche, no? Per cui non lo so fino a quanto vale la pena di mettere potenza, tutto lì. Sì, utilizzando la magnetica, la base magnetica, quella tripla o Gianni, e quella non potrebbe essere più forte per la 2001. Non lo so, io ce l'ho nuova, l'avevo comprata perché sono andato a fare la spesa e per caricare la spesa ho tolto l'antenna e l'ho appoggiata a una colonna, no? E poi me la sono dimenticata, sono ritornato subito dopo e non c'era più, me l'avevano già presa. E poi tramite amici e cose avevo saputo che l'aveva trovata il cugino di Coso, come si chiama? Adesso non mi viene il nome, di Saverio. L'ho chiamata a Saverio e mi ha detto, guarda, ce l'ho io questa antenna, ma l'altra mio cugino l'ha trovata nella rotatoria, adesso dimmi tu, potevano lasciarla lì per buttarla poi nella rotatoria. E niente, io l'avevo già comprata l'antenna nuova, quindi non l'ho mai piazzata, l'ho lasciata nuova com'era e ho rimesso quella che avevo. Ho capito. No, ma io sto parlando, esiste la magnetica che ha tre rondelle praticamente, anziché essere un'unica rondella da 15-17 cm di diametro, ne ha tre, magari che so io saranno 8-10 cm per ogni rondella, e quella è una aderenza molto molto superiore alla semplice base. Sì, ci la conosco, ma no, è troppo grosso la cosa, non mi piace. Invece questa qui è tutto quanto in miniatura, va bene, è tranquillo. Certo, ho premesso sempre che l'impianto migliore è quello che avevi una volta sull'altra macchina che avevi prima, al centro della capota, quello era l'ideale, però giustamente tu mi dici, ma io la macchina non la buco, anche perché è nuova, se fai bene tutto sommato non ne vale nemmeno la pena, tanto per il numero di persone che si trovano in frequenza non ne vale la pena bucare la macchina, anche se devo dire se fate un bel lavoro non è che sia così offensiva per la macchina stessa fare un lavoro del genere. Sì, vabbè, ma se ci metti la Turbo 2001 già a volte la gente l'ha spaccata la lamiera a furia di, siccome è pesante, a furia di oscillare e cose gli ha strappato la lamiera. A me nell'altra Session Vego la lamiera si è strappata lo stesso, un po' ho dovuto fare un altro buco, tappare quello con uno di qui così che si mettono le tappi che si mettono è presente nei lavandini quando tu per dire cambi i rubinetti metti il miscelatore al posto dei rubinetti, quei tappi che si mettono, l'ho messo uno di quelli siliconato, verniciato come la macchina e non si vede più. Sì, conosco quei tappi che si mettono nelle cassettine dello sciacquone, che ci sono due fori, uno da una parte e uno dall'altra, a seconda della posizione dell'impianto idrico, utilizzi o quello di destra o quello di sinistra, e l'altro viene tappato con questo tappo appunto fatto apposta per queste occasioni qua. E niente, l'ho fatto davanti, andava bene lo stesso, l'ho fatto a livello della lampada, diciamo, della macchina, e proprio per la plafoniera che c'è, l'ho fatto lì a quel livello lì, di modo che venisse bene a fare l'impianto, e andava bene lo stesso. Ok, beh certo, si è fatto con criterio, va bene lo stesso, certo, non è detto che deve essere per forza uno di quei tappi lì. Un tappo si può costruire alla grande, no? Non c'è problema. E se no lo dice al signor Archimede, Luca Splipper, che lui lavora in 3D, lavora e ci fa anche i tappi, eventualmente qualsiasi altra cosa che occorresse, per dire una manopola del baracchino, un porta oggetti, un qualsiasi cosa, lui te lo costruisce. So, mi ha fatto un bel portatelefono. Sì, lo so che fa delle belle cosette, ha quella passione per cui già si difende, dai, già le sa fare queste cose, non lui, la macchina, lui la programma, la macchina lavora. Ma se tu non lo programmi bene la macchina ti fa saltare, bisogna sapere anche usare il computer. Beh certo che sì, appunto lo sto dicendo, lui la programma e la macchina lavora, è ovvio. Sono due attività, una la sua e una quella della macchina. Per cui se lui prepara bene, la macchina funziona bene, se prepara male, la macchina fa flop. Va bene Giulio, dai, ti saluto, che vado a ritirarmi la roba, che ci sta mettendo male il tempo, non si sa mai che piova, mi bagna tutto, poi se fa di quella più ci ascolta, un casino. Ok, vabbè, dai, già, se devi andare, non c'è problema, non c'è problema, io rimango qua, altri 5 minuti, se entra qualcuno va bene, se no spengo e me ne vado al computer, oppure me ne vado io a fare due passi, non c'è problema. Cappa, va bene, ti saluto, dai, buona giornata. Ciao, già, ciao, buon primo maggio, ci sentiamo alle prossime, ciao. Luca, io a te nemmeno ti chiamo perché intanto lo so che non hai la favella, soprattutto la mattina presto. Luca, senza la favella, ci sei?